Siamo fragili se tutti ci toccano. Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Io non dormo quando ti penso, io non dormo e basta e compenso. Io lo so che siamo uniti, se a capirsi basta il silenzio. Senza te sarai nel vuoto, mentre insieme siamo immortali. Baby accelero la moto, chiudi gli occhi e spegni i fanali. Vedi, noi siamo la luce insieme, il male che produce il bene. La notte abbassa lo sguardo, che guardarci non gli conviene. Noi fumiamo questa vita, una paglia dopo l'orgasmo. Stanno tutti quanti a riva, facciamo l'amore al largo. Siamo il bianco e siamo il nero, siamo Dio che appare davvero. Siamo piccoli e perfetti, come il mondo visto dal cielo. Siamo fragili se tutti ci toccano. Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Cammino sulle mine, per te passo questo confine, portando nel bagagliaio cose che non ti posso dire. La mia vita è un film come al cine, io te polio posto al caline. Solo tu mi rilassi alla fine, solo tu mi rilasci endorfine. Non mi fido delle altre bambine, siamo unici tigri albine. Sotto il sole di mezzanotte, io ti scriverò le mie rime. E la nostra vita è musica, quindi rappo sopra il tuo battito. E quanta gente ci giudica, nessuno coglie quest'attimo. Sognavo che ero innocente, ma poi mi sono svegliato e tu non c'eri per niente, e restavo il tipo sbagliato. Siamo fragili se tutti ci toccano. Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Cose che non si possono dire. Insieme siamo l'inizio e la fine. E la fine. Come animali, a piedi nudi come i gitani, contro il mondo con le mani, come se non ci fosse un domani. Ora siamo pronti a tutto, a cose che non possiamo dire, a sogni che non fanno dormire. Noi siamo l'inizio e la fine. Non devo guardare il cielo per capire da dove piove. Se mi cerchi sono già altrove, indirizzo nuvola 9. Io che ti ho coperta d'oro nei nostri giorni preziosi, ed ora piango sangue e gli dèi sono tutti invidiosi. Siamo fragili se tutti ci toccano. Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Cose che non si possono dire. Insieme siamo l'inizio e la fine. Fine.